Finisce di fatto nelle mani dei presidi l'organizzazione effettiva per il rientro in classe a settembre. Le linee guida del Ministero parlano di apertura anche il sabato, di didattica mista online in aula, di riorganizzazione delle classi, ma molto sarà lasciato ai dirigenti scolastici che già sono là, che cercano di capire come organizzare gli spazi. Tutto delegato a loro, in sostanza. Intanto il governo resta diviso sul taglio dell'IVA. Conte pare insistere, il PD frena perché vorrebbe invece una riduzione del costo del lavoro. Di cos'altro si discute? Di Emilio Fede, arrestato per una cena con la moglie a Napoli con l'accusa di evasione dai domiciliari, del caso Tangenti che investe l'azienda dei trasporti milanese, di Novak, o come tutti ormai lo chiamano Novax Djokovic, positivo al coronavirus, ma anche di questo si parla quasi come se il virus fosse passato. Non per fare gli uccelli del malaugurio, ma ricordiamo che in Germania sono appena tornate in lockdown alcune centinaia di migliaia di persone, che negli Stati Uniti ne sono morte 800 in 24 ore e che in America Latina si contano ormai più di 100.000 vittime. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. I'm free to do what I want in any old town. I'm free to do what I want in any old town. So love me. Chissà, adesso che siamo in fase 3 o fase 4 o come si chiama, forse questa canzone degli Stones dovremo cambiarla, un pensierino ce lo facciamo per lunedì, adesso chiudiamo la settimana, va. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, sono le 6:32 minuti e 54 secondi, è mercoledì 24 giugno e siamo qua con la nostra task force, Carmelo Lauricelli regia, Anita Panizza in assistenza, in redazione, insieme a Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ine e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. E voi, cara Task Force di 24 Mattina, cari componenti della Task Force di 24 Mattina, vi aspetto al 349-238-6666. Le vostre voci e anche gli WhatsApp audio. Già Salvatore scrive, dice: voglio sapere se oggi toccherete il tema dei biglietti venduti da Linate per Linate e non... Però non si sa se l'aeroporto riapre oppure no, ne abbiamo parlato ieri in rassegna stampa, vedremo. Alitalia spinge per una riapertura, SEA, la società che gestisce gli aeroporti, ci sta pensando, fatto sta che adesso voi potete comprare tranquillamente dei biglietti per Linate, ma non si sa effettivamente se l'aeroporto riapre oppure no. Eventualmente dirottano su Malpensa, ragazzi, che vi devo dire? Anch'io ho dei biglietti da Linate per quel periodo, che posso fare? Mi pare che il tema centrale di oggi sia la scuola, poi ne parleremo più avanti. Avremo anche ospite il presidente dell'associazione dei dirigenti scolastici, alle 8:45 sarà nostro ospite. C'è un grande tema aperto qua, vi voglio segnalare, poi daremo un accenno ulteriore in rassegna stampa. Il pezzo più duro che ho trovato oggi è quello firmato da Chiara Saraceno sulla Repubblica, pagina 27, che per darvi la misura inizia così, anzi no, per darvi la misura vi do il titolo: La ministra della sciatteria, si intitola. Bello tosto. Perché qua appunto va tutto nelle mani dei presidi e dunque voi potete ben immaginare che cosa succede, le differenze anche solo edilizie tra gli istituti scolastici, le differenze di dotazioni economiche, il rischio di disparità che si può creare tra scuole più povere e scuole più ricche in una condizione di questo genere. E c'è un po' il grande tema di fondo che sottolinea Chiara Saraceno, ossia che l'autonomia scolastica esce fuori solo quando fa comodo, quando si tratta di centralizzare e di dire no, dovete stare tutti chiusi, non c'è possibilità di riaprire, allora conta lo Stato centrale. Poi quando si tratta invece di prendersi qualche responsabilità, tocca alle scuole. Un po' facile. Magari la pensate diversamente, vi aspetto su questo. Tutta la discussione sul fisco ci arriviamo tra un attimo. Intanto la ministra Azzolina parla di educazione civica. La riapertura non è fatta solo di misure di sicurezza e di prevenzione del contagio, stiamo guardando anche oltre. Dal prossimo settembre, ad esempio, troverà applicazione la legge sull'educazione civica, che torna ad essere obbligatoria, valutata con voto. Il ritorno dell'educazione civica riguarderà tutti i livelli di istruzione, dai bambini dell'infanzia al secondo ciclo. Per carità, è intento lodevole, mi pare che siano altre questioni sulle quali concentrarsi. Come si diceva, il virus permane e ci sono infinite discussioni tra quasi non se ne può più. Ieri in TV le foche dell'Umberto I di Roma, fermato mentre parla da Galli di Milano. Carmelo, peschiamolo, va quest'audio. Galli contro Galli che urla contro le foche. Qua i virologi ormai partono così. Ce l'abbiamo? Fatichiamo a pescarlo. Vabbè. Vediamo delle sintomologie assolutamente di scarso conto, molti asintomatici, perché la carica virale è molto bassa, quindi spesso non troviamo, e anche la condizione per la quale ci sono delle persone. Il professor Galli scuote la testa con grande precisione. Abbiamo avuto tanti asintomatici fin dall'inizio. Ma no! Cara Francesca Sforza della Stampa, come stai? Buongiorno Francesca. Buongiorno, bene, grazie. Anche tu membro della nostra task force. Ma vado errato, Francesca, a proposito di scuola, anche tu sei trifigliata come me, che stiamo qua, che siamo in attesa di settembre, disperati, non sapendo come ricominceranno le scuole. Come la vedi questa storia? Allora, io vedo come... diciamo un pochino tutta questa vicenda della scuola, personalmente non trovo sbagliata l'autonomia delle scuole, la trovo però, come dire, poco funzionale, nella misura in cui parte, come dice Saraceno, nasce un po' così la centralizzazione quando serve e l'autonomia quando la centralizzazione non arriva, che non è una logica giusta, ma soprattutto non è una logica giusta quella in qualche modo della resa, no? Perché si ha la percezione che la ministra Azzolina avesse fino adesso tentato di dare delle linee guida e, non essendoci riuscita, abbia detto fate un po' come vi pare. Questa è un pochino la sensazione che dà la nascita di questa decisione. E quanto le decisioni nascono così, non nascono bene, perché poi se invece andiamo a vedere la cosa che io appunto personalmente ho notato come genitore, che in alcuni casi, non tutti ovviamente, le scuole si stavano già dando da fare, ma erano bloccate dall'assenza di direttive. Allora questo ha fatto perdere tantissimo tempo alle scuole, per cui questa decisione che arriva adesso è una decisione che non le aiuta. Se fosse arrivata un mese fa, nel senso avvisate già le scuole dicendo ognuno faccia un piano di organizzazione, perché è vero che le edilizie sono tutte diverse, il personale scolastico e il personale non docente a disposizione di ogni scuola è diverso, le età sono diverse, non si può pensare di gestire un bambino di 3 anni come uno di 15. Certo, ovvio. E quindi bisognava fare un discorso estremamente specifico e estremamente, come dire, distinto caso per caso, che è giusto che le scuole abbiano un grosso margine d'autonomia. Purtroppo su questa cosa dell'autonomia vedo che in generale il nostro governo ne ha data poca, no? Voglio fare un ultimo esempio, quello sulle vacanze, per esempio. Mi ha colpito il ministro tedesco degli esteri che ha detto ai tedeschi, ai concittadini, del 15 giugno voi potete andare in vacanza dove volete. Noi vi informiamo di tutto quello che vi può capitare e dei rischi di contagio di ogni posto del mondo. Sì. Voi avete la massima libertà, ma non mi venite a chiedere se vi prendete il virus in un posto qualsiasi del mondo di venirvi a prendere. A questo punto, sono fatti i vostri. Voi andate, a questo punto sono fatti i vostri. Sì. Il tema è il grande tema della responsabilità. Sì, ha ragione l'ascoltatore che mi fa notare che Galli, lo dico per precisare, Galli è un infettivologo, non è un virologo, Questo sul fronte della scuola, un po' sul fronte di Covid, tra l'altro tra poco ci collegheremo con Berlino, andiamo dalla nostra amica Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Repubblica da là, dalla Germania, per farci raccontare un po' questa storia del mattatoio dal quale sono emersi 1500 casi, che ha portato a un nuovo lockdown tedesco, visto che parlavi di Germania, Francesca, appunto. Sì. Andrei a sentire un po' tutta la questione fiscale. È una questione sulla quale il governo si sta dividendo. Diciamo che è una divisione tradizionale della politica italiana. Questa è un'altra di quelle questioni che riemerge periodicamente. La divisione tra chi vuole tagliare la tassa sui consumi, ossia l'IVA, e l'altra questione è quella di chi vuole invece spingere sul taglio delle tasse sul lavoro. Ieri il ministro Gualtieri era ospite qua a Telefisco, l'appuntamento annuale dell'esperto risponde del Sole 24 Ore. Sentiamolo, Gualtieri sull'IVA. Dal punto di vista congiunturale, dal punto di vista macroeconomico, ci sono casi come la Germania che ha considerato opportuno per alcuni mesi, ma solo per alcuni mesi o per alcune categorie, prima l'ha fatto poi per alcuni mesi in modo generalizzato, abbassare l'IVA per dare una spinta ai consumi. Ma questo è un intervento, diciamo così, congiunturale. Infatti in Germania dal 1 gennaio poi tutto ritorna come prima. Quindi è uno degli strumenti possibili di tipo congiunturale. E insomma, Gualtieri pare non escluderlo, però Francesca, l'impressione netta è che ci sia di fatto Conte che è rimasto quasi da solo su questa storia dell'IVA. Non lo segue il Partito Democratico? Sicuramente. Non lo segue il Ministro dell'Economia e forse non lo segue nemmeno il Movimento 5 Stelle. Sì, perché di nuovo queste sono misure che... Cioè, fare i paragoni con la Germania, sono contenta che poi ci sarà Sonia che ne parlerà con anche maggiore autorevolezza, ma è sempre un po' sbagliato perché non abbiamo due economie che viaggiano parallele, abbiamo degli indicatori completamente divergenti. Allora, noi abbiamo anche un grosso problema non solo di rilanciare i consumi, ma noi deve ripartire l'economia. C'è un problema, le persone non spendono in questa fase di contrazione. Vanno trovate misure che diano impulso e quattrini subito nelle tasche di più persone possibile. Esatto. È quello che abbiamo detto fin dall'inizio, che forse qualcosa in più a fondo perduto rispetto alla possibilità di contrarre debiti bancari forse ci sarebbe stato. Allora, qualcosa di più, come vogliamo chiamarlo, qualcosa un pochino più leggero forse, perché c'è stata una mega polemica sulle parole del presidente della regione Campania, De Luca. Tutti hanno detto forse sta un po' esagerando, perché l'altro giorno su Salvini, allora tema, Salvini dice è una vergogna i tifosi del Napoli che festeggiano senza mascherine e tutto quanto. De Luca che gli replica e dice: beh, da uno così che ha fatto la manifestazione del 2 giugno, io non me lo faccio dire. E tra le altre cose dice di Salvini: ha il fondoschiena usurato, così. E tutti dicono: beh, forse questa volta De Luca ha esagerato. E De Luca ha ritenuto opportuno spiegarsi. Se dovessimo fare l'esame dei toni utilizzati da alcuni esponenti politici contro i meridionali, contro i napoletani, potremmo parlare per un anno intero. usurato significa semplicemente che in politica c'è un fattore che si chiama fattore C, che è il fattore della fortuna. Usurato significa che nel giro di un anno hai perduto il 10% dei voti dalle elezioni europee ad oggi. Io ho detto semplicemente che quando uno organizza cose in violazione delle norme e poi fa il moralista, ha la fascia ai bronzi. Vabbè, eccolo qua. Il solito De Luca, traffico. Promo 24. Per una ripartenza nel segno della salute e della sicurezza, Schindler, società leader nel settore degli ascensori e scale mobili, presenta Schindler Hygienic, la gamma di soluzioni innovative per scale mobili e ascensori sempre igienizzati e virus free, dalla tecnologia a raggi UVC per la sanificazione profonda dei corrimani delle scale mobili e delle superfici interne degli ascensori, alla purificazione dell'aria in cabina, all'uso di speciali pellicole antibatteriche. Schindler ha pensato a tutto con un unico obiettivo: innovazione e tecnologia per ascensori e scale mobili sanificati e sicuri. Schindler Hygienic è l'ideale per uffici, hotel, supermercati e centri commerciali, ospedali, stazioni e aeroporti e non solo. Tutte le info su schindler-hygienic.it. Ma non ce l'ho con De Luca. Mi fa sorridere, cioè, come sempre mi fa sorridere un po' questa intonazione che ha, quest'ironia, questo modo di parlare. Oh, a proposito di cose abbastanza buffe, ieri c'è questa del vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Giancarlo Cancelleri, che va nella sua regione, la Sicilia, e dice: il turismo sta tornando, guardate là quella nave che c'è, intervistato dai cronisti, sentite. Ho visto che c'è una nave ormeggiata, questo significa che arrivano turisti, questo significa che ci sono prospettive. Dobbiamo cercare di migliorare ancora di più e far diventare questa cosa un'opportunità sempre maggiore. È il traghetto, vabbè. E la mobilità zappa. Sì. C'è pure la mobilità. Non è turistica. Però. Dico passa, questo qua. Allora, è un traghetto, non è turistica, ma aggiungo io. È in realtà una nave utilizzata per la quarantena dei migranti che arrivano in Italia. Quindi Cancelleri non l'ha vista, non l'hanno informato bene, evidentemente. Poi di cos'altro si parla? Vabbè, insomma, di Djokovic. Ragazzi, che ci dobbiamo dire? Insomma, noi federeriani d'acciaio sappiamo chi è il numero uno. Sappiamo chi è il numero uno, eh? Lo sappiamo. Con tutto il rispetto per un grandissimo giocatore come Novak Djokovic, ma noi federeriani lo sappiamo. E poi Emilio Fede arrestato. Guardate che è chiaro, ha violato la legge, non sto dicendo niente, però la cosa è romanticissima. Lui che va dai domiciliari per il suo 89esimo compleanno a cena sul lungomare a Napoli con la moglie Diana De Feo, dice: quando ho visto i poliziotti mai avrei pensato. Mai pensavo, chissà di cosa è successo, avranno rapinato casa, non so che cosa poteva essere successo, non certamente ordine di arresto. Oh, certo, Francesca, che tra le prime pagine con Emilio Fede, le tangenti all'azienda dei trasporti milanesi per la metropolitana, c'era un clima da anni 90, ieri pazzesco, eh? Che dici? Beh, in effetti sì, abbiamo questo, cioè la nostra cronaca tende a ripetersi, sì. Diciamo, cioè, perché anche questa cosa di Emilio Fede, francamente, insomma, non so, i problemi della giustizia sono talmente tanti, i problemi del calcio sono talmente enormi, e poi diciamo, alcune come questi vediamo, insomma, praticamente un'efficienza te lo trovi là. Che cosa ancora da questa giornata? Beh, un po' di politica, ovviamente, con tutta la questione delle regionali. Vediamo se abbiamo qualche audio da farvi sentire, ma prima vorrei andare sulle questioni sulle questioni generali, sui dossier aperti del governo. Abbiamo parlato di IVA, riduzione del costo del lavoro, poi sono quelli, quelli che sono qua adesso. Pensiamo per esempio ad Alitalia, pensiamo per esempio ad Autostrade. Ieri così il segretario del Partito Democratico Zingaretti su il governo che deve risolvere i punti. Questo governo ha abbassato le tasse con la stessa determinazione. La maggioranza ora dovrebbe chiudere dei capitoli da troppo tempo aperti. Lo hanno detto tutti, lo ha detto anche il presidente Conte, ma ora bisogna davvero chiudere. Legato alla rinascita italiana, penso al tema Alitalia, al tema autostrade o al tema delle acciaierie Ilva di Taranto. Questi sono i primi fatti concreti di vera ripartenza e di impostazione della rinascita italiana. Oh. Qua, Francesca, intanto la gente si sta dividendo, eh. Mi accusano per essere un federeriano di essere... dice il solito debole con i forti. La fame di gioco forever, mi dice un ascoltatore. Ma no, non è una, no, non è una questione. Senti, invece Zingaretti, a me, non so, magari sono troppo critico io e quindi tu dimmi, dimmelo se sono troppo critico. Ma... Chi c'è in maggioranza? E a me questa cosa mi fa impazzire, cioè Zingaretti parla come se fosse fuori dalla maggioranza, dice adesso la maggioranza e il governo dovrebbero risolvere questo, questo e questo punto. Ma chi è il segretario del Partito Democratico se non lui? Guarda, ti confesso che sentendo l'audio ho fatto la medesima riflessione, si parla del governo come se fosse una cosa di altri. Detto questo, la mia impressione è che non ci sia alternativa reale a questa maggioranza anche nel dibattito, cioè il dibattito che politico che viene fatto è un dibattito, parliamoci chiaro, debole, facilissimo, sì. Un dibattito interno di cui io credo che anche proprio i nostri lettori, i nostri ascoltatori abbiano la percezione che si tratta un po' di una simulazione. Sia simulazione di accordo, sia simulazione di disaccordo, in generale è come se la nostra atmosfera politica si regga nell'assenza di alternativa, a fronte di una, diciamolo, credibilità personale di Conte che tutto sommato riesce a tenere insieme una compagine diversissima. Vero. Vero, vero, notevole, notevole. Una cosa da analizzare anche in futuro, cioè adesso a botta calda è più difficile. Vedremo in futuro cosa se ne dirà. Esatto. Sono molto curioso. Allora, grazie a Francesca Sforza. Vi aveva annunciato Tonia Mastrobuoni da Berlino che verrà bacchettata duramente perché non ci ha risposto questa mattina. Andremo alle cronache tedesche, ci torneremo su queste cronache tedesche perché sono sicuramente importanti e rilevanti. Grazie a Francesca Sforza della Stampa. GR24, ci ritroviamo subito dopo, come sempre, con la rassegna e con voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci. A dopo.